Al pari del vaso rotto in cima alla Torre Asinelli, anche il quinto dei sette segreti di Bologna è piuttosto controverso. Si tratta della presunta scritta Panum Resis, incisa in un tavolo della sede storica del rettorato dell'università, a Palazzo Poggi, via Zamboni 33, ma nessuno è mai stato in grado di localizzare questa scritta. Non in tempi recenti, almeno, non da quando la tradizione dei sette segreti è entrata nell'immaginario collettivo. Il significato della frase, comunque, la cui traduzione letterale dal latino è «il pane della resistenza», indicherebbe la conoscenza come fonte di ogni decisione. E non è un caso se questo concetto è associato proprio all'università più antica del mondo. Fin dal Medioevo, lo studium, oggi Alma Mater Studiorum, è stato, ed è tuttora, una grande risorsa culturale ed economica per la città. Tuttavia, non sarebbe questa un'autentica guida ai segreti di Bologna se non ci preoccupassimo di svelare uno dei più grandi segreti dell'università, quello legato alla data di fondazione. È opinione comune, infatti, che l'università bolognese sia stata fondata nel 1088 da Irnerio, un erudito di origini tedesche che operava come giurista alla corte di Matilde di Canossa. Ma è davvero corretta questa data? In realtà si tratta di una convenzione stabilita nel 1888, anno in cui a Bologna si tenne una grande esposizione nazionale. Venne comodo quindi indicare quella data in modo da farla coincidere con l'ottavo centenario della fondazione dell'università, e per farlo venne istituita una commissione presieduta da Giosuè Carducci. Tale decisione venne presa sulla base dell'esistenza di un documento datato 1088, le cui prime parole recitano: «Quidam dominus pepo cepit auctoritate sua legere in legibus», riferendosi a un certo Pepo, detto anche Pepone, che teneva lezioni ad alcuni e che questi lo pagavano. L'argomento delle sue lectiones era il Corpus Iuris Justinianeum, la raccolta del materiale giurisprudenziale di diritto romano voluta dall'imperatore bizantino Giustiniano nel VI secolo, al quale per qualche motivo Pepo aveva accesso. Tuttavia, la recente scoperta di un analogo documento datato 1076 potrebbe consentire di retrodatare la fondazione dello studium. Di Pepone si sa poco o nulla di più, se non che tra i suoi allievi figurava Irnerio, nel 1116 tra i firmatari del privilegio con cui l'imperatore Enrico V concesse a Bologna di costituirsi comune. Del resto, si sa poco anche del personaggio storico di Irnerio, in quanto i documenti fino a noi pervenuti sono scarsi e frammentari. Ciò che è noto è che fu il primo dei glossatori bolognesi, iniziando quello studio metodico e razionale sul diritto romano che nei secoli successivi renderà famosa l'Università di Bologna. Nato nel 1060, durante la sua attività di insegnante ebbe quattro allievi, i cosiddetti quattro dottori, che continuarono la sua opera in modo che la sua esperienza non si estinguesse con la sua morte, avvenuta presumibilmente intorno al 1130. Una curiosità. Fu Irnerio il primo a usare il terzetto Titius, Gaius et Sempronius per indicare tre persone qualsiasi, una convenzione che si è affermata nei secoli rimanendo di uso comune fino ai giorni nostri. Dimenticato nel corso dei secoli e riscoperto soltanto dagli storici nel XIX secolo, Irnerio godette di una grandissima fama ai suoi tempi, venendo soprannominato giurista illuminato. Un suo contemporaneo, il giudice Odofredo Denari, lo definì «primo illuminatore delle nostre scienze». Sebbene non sia possibile stabilire quindi una data precisa per la fondazione dell'università come istituzione, sappiamo che ai suoi albori venne strutturata come una libera e laica organizzazione tra studenti che provvedevano a scegliere e finanziare i docenti. Venne inizialmente spontaneo per gli studenti riunirsi in associazioni chiamate naziones, a seconda del paese di provenienza, con capi riconosciuti, i rectores, nominati per elezione. Pare che tra i primi studenti stranieri a Bologna ci siano stati gli ungheresi, ma di certo la più celebre associazione è quella degli studenti spagnoli. Il Collegio di Spagna, voluto dal cardinale Albornoz nel 1364 e attivo ancora oggi, ha ospitato tra gli altri Ignazio di Loyola e Miguel de Cervantes durante il loro periodo di studio all'Università bolognese. Al democratico modello bolognese dello studium si contrappose il modello parigino, associazione di docenti soggetti all'autorità dell'imperatore e del papa. Nel 1158 fu Federico Barbarossa a tutelare l'Università di Bologna come luogo di studio indipendente da ogni potere, tramite il decreto Privilegium Scholasticum. Tra i privilegi concessi agli studenti ricordiamo l'immunità dal diritto di rappresaglia, una norma che permetteva a chiunque avesse subito un torto da parte di un forestiero di rivalersi su un suo compatriota. Un'immunità simile a quella dei religiosi, a patto di vestire con abito clericale, il diritto di essere giudicati dai propri maestri anziché dalla magistratura ordinaria e la libertà di movimento e di viaggio per motivi di studio. A partire dal XIV secolo, agli studi di diritto si affiancarono altre discipline, all'epoca considerate artistiche, come la logica, l'aritmetica, l'astronomia, la medicina, la filosofia, la grammatica. In seguito saranno aggiunte teologia, greco ed ebraico, e nel XVI secolo viene inaugurato un corso di studi dedicato alla magia naturale, precursore della scienza sperimentale. Alcuni dei più illustri intellettuali del passato hanno studiato a Bologna, tra i quali citiamo Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Thomas Becket, Paracelso, Erasmo da Rotterdam, Pico della Mirandola e Niccolò Copernico. Tra i segreti dell'Archiginnasio.